Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia e i temi di oggi sono temi abbastanza obbligati quanto a cronaca della giornata economico-finanziaria. Mi riferisco da un lato al danno economico che questa nube islandese sta causando all'Europa, ma non solo. Si aggiungono alla lista dei danni per le compagnie aeree, stimate in circa 50 milioni di euro al giorno, i danni anche per il settore dell'agricoltura. Avremo ospiti proprio su questi temi. Anche qui, come avrete letto forse sui giornali, moltissime tonnellate di merce, anche italiana, soprattutto italiana, del settore alimentare e agricolo, bloccate negli aeroporti. Si stima, lo fanno gli agricoltori, un danno di circa 15 milioni di euro al giorno per il settore, oltre appunto ai 50 delle compagnie aeree, e poi tutto un insieme di altri danni, con però anche dei vantaggi. Per esempio ci stanno guadagnando le Ferrovie dello Stato con i treni supplementari, ci stanno guadagnando gli alberghi e i ristoratori e anche le compagnie di noleggio auto completamente esaurite. Insomma, tratteremo come sempre con un taglio economico anche questi aspetti del caos, del blocco, che devo dire, al di là degli appuntamenti di carattere personale, è un blocco soprattutto che crea danni al mondo del lavoro a livello europeo e oltre che al mondo della politica. Il vertice annullato ad Atene, non al mondo dello sport, perché come ricordava anche il nostro Gigi Garanzini, le partite si giocheranno, addirittura i giocatori del Barcellona sono arrivati in pullman, in autobus qui a Milano. Detto questo, l'altro tema sarà la vicenda Goldman Sachs. È appena uscita un'agenzia che non lascia presagire nulla di buono, perché dopo la denuncia per frode a Goldman Sachs, ricorderete venerdì, il titolo ha perso il 14%, buttando giù tutto il settore bancario in America e in Europa. Accusa di frode, accusa di aver venduto dei prodotti finanziari legati ai mutui subprime, cioè legati a quello che sono i mutui a maggior rischio, ma soprattutto, questo di per sé stessa non sarebbe una frode, ma avrebbe nascosto informazioni decisive ai clienti a cui vendeva questi prodotti derivati dai mutui subprime. E soprattutto Goldman Sachs vendeva ai clienti, secondo l'accusa, questi titoli e poi però scommetteva sul mercato al ribasso sugli stessi titoli che aveva piazzato ai suoi clienti. Volevo dire, un atteggiamento strabico per essere buoni, di frode, secondo le accuse della Consob americana. Ne parleremo in apertura, anche perché in tutto questo l'agenzia che è appena arrivata riguarda il Wall Street Journal, e quindi il quotidiano economico finanziario più importante degli Stati Uniti e anche a livello mondiale. Dopo la denuncia a Goldman Sachs, la leggo assieme a voi, la Consob americana, la SEC, starebbe indagando anche su altre banche, cioè se altri prodotti legati ai mutui possono avere tratto in inganno gli investitori e quindi aver avuto informazioni non complete, ma anche se nel frattempo le banche che li collocavano stessero scommettendo al ribasso su questi stessi titoli. Per cui è come se uno ti vendesse una macchina e poi andasse a scommettere con l'assicurazione che la tua macchina si romperà a breve. Ancora, secondo il Wall Street Journal, il caso contro Goldman Sachs ha puntato i riflettori su una vicenda che a Wall Street era tutto tranne che un segreto. E cioè, quando il mercato della casa, dell'immobile in America ha cominciato a tremare, alcuni, e si sapeva già alcuni anni fa che i prezzi erano fuori controllo e che i mutui erano stati dati senza le garanzie necessarie, alcune banche hanno creato prodotti derivati che consentivano di scommettere, come gli hedge fund, ai clienti su una rapida crisi di quel mercato. Ecco l'accusa, cioè da un lato vendevi dei prodotti, dall'altro andavi a scommettere sulla crisi. Le banche che avrebbero creato questi prodotti sono Deutsche Bank, UBS e Merrill Lynch, che adesso è di proprietà della Bank of America. Vedremo gli sviluppi, ne parleremo in apertura. Detto ciò, poi commenteremo anche la borsa. Allora, la borsa è negativa soprattutto in Europa, meno 1% a Milano, meno 0,3% Parigi e Francoforte, -0,3 anche Londra. L'America in questo momento è invariata, euro debole a 1,34,6 nei confronti del dollaro. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo subito con le notizie in breve, proprio iniziando dai mercati. Allora, vedo già dei messaggi che dicono: attenzione, gli hotel ci stanno rimettendo per i pochi clienti che sono costretti a restare, nessuno arriva e giustamente non facciamo pagare penali. Io riportavo le notizie che abbiamo raccolto dalle agenzie. Sicuramente per molti alberghi di località turistiche in primo luogo, ma anche di centri d'affari, c'è una perdita, un danno. Sarebbe interessante sapere se sono più clienti che sono rimasti, sono stati obbligati a restare, di quelli che sono, che non sono arrivati. I titoli di borsa, allora, negativa oggi CIR, -3%, Azimut, -3%, Exor, -2,70%, Autogrill, -2,70%, Buzzi Unice, -2,5%, come Mediolanum, il 2,4% lo perde Parmalat, l'1,80% lo perde Campari, ma anche in pregilo negative, anche se non in maniera così pesante come venerdì, le banche e le assicurazioni, Unipol, -1,5%, Generali perde l'1,5% anch'essa, come la Popolare di Milano, Intesa, San Paolo perde l'1,3%, Fondiaria pure perde l'1,3%, Mediobanca l'1%, Ubibanca perde lo 0,80% in questo momento in borsa, Unicredit perde l'1,1%. Notizie che arrivano dall'estero, come sempre in apertura del programma. Allora, il petrolio è in calo a $81 al barile, -2,5%, e l'Agip taglia di 1,2 centesimi il prezzo della verde, portandolo a 1,415 euro. Allora, secondo, arriveremo anche, vedo già molte notizie sui danni economici, se la polemica, sì, c'è una polemica in effetti anche della IATA, che è l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo. Giovanni Bisignani, che ne è il direttore generale e CEO, ha detto: insomma, questo è un pasticcio europeo, un motivo di imbarazzo per il mondo, perché ha criticato Bisignani soprattutto l'ulteriore scelta di bloccare i voli, malgrado le compagnie aeree perdano dai 200 ai 250 milioni di dollari di ricavi al giorno. Questa è la cifra complessiva, anche qui le cifre iniziano a essere un balletto, però e 750.000 passeggeri siano abbandonati negli aeroporti. L'Europa ha impiegato 5 giorni per organizzare una conference call del ministro dei trasporti. Tra l'altro, secondo altri esponenti del mondo aereo, si è fatto notare che le misure sono estremamente severe, quelle prese dall'Europa, perché in altri casi al mondo non si arrivò al blocco del traffico aereo. Il numero uno di Air France, Pierre Gojon, ha detto: siamo davanti a una situazione inedita e imprevedibile, peggio di così non poteva essere, potrebbero essere a rischio 500.000 posti di lavoro in Europa. Io vorrei capire, insomma, anche perché tante cose annullate, ce lo chiedete, il vertice bilaterale italo-tedesco, sono arrivati invece da te, nonostante le difficoltà di trasporto, gli uomini del Fondo Monetario Internazionale. La maggior parte sono già arrivati, però i colloqui che dovrebbero iniziare mercoledì ad Atene sono ancora in forse, perché non si capisce se lo staff dell'Unione Europea riuscirà ad arrivare ad Atene, non si capisce bene con quali mezzi. Vedo, sì, alcuni ascoltatori fanno notare che anche le compagnie telefoniche potrebbero guadagnarci molto con le conference call a sostituire molti viaggi aerei. Sì, penso e immagino che sia impossibile stimare poi quanto è per le compagnie telefoniche il vantaggio di utilizzare conference call e telefonate internazionali per supplire all'assenza di voli. Comunque, fate bene a farlo notare. Andiamo avanti. Sulla Grecia, il rendimento dei titoli di Stato greci, cioè quanto a rischio sono i titoli di Stato greci e quindi quanto la Grecia deve offrire per farseli comprare, è schizzato al massimo storico da quando è arrivato l'euro nel 1998 a 452 punti base, 4,52%. Questo è lo spread, la differenza tra quanto rende un'obbligazione greca rispetto a un'obbligazione tedesca. Il 4,52% è la differenza del rendimento. E non è una buona notizia, non a caso vedo che l'euro si torna sotto quota 1,35, 1,34,62. Volano anche sulla Grecia le scommesse di un fallimento, di un crack, di un default. I titoli del debito appunto sono arrivati ai massimi e anche i CDS, quindi quelle che abbiamo chiamato le polizze assicurative verso chi compra un rischio Grecia, credit default swap, cioè quanto costa assicurarsi nel caso andasse male l'operazione fatta sulla Grecia, è schizzata a 472 punti, un altro 0,34% in più, ed è il massimo storico anche in questo caso. E non è un caso che stamattina la borsa greca abbia sofferto e continui a soffrire, perde oltre il 2%. Anche il Portogallo vede aumentare la differenza tra obbligazioni e quanto rendono le obbligazioni portoghesi e i valori del CDS. Pagano 200 punti base i CDS portoghesi, quindi quello che potremmo chiamare il premio polizza assicurativa per assicurarsi dal rischio di aver che l'investimento fatto in Portogallo, che il debito portoghese salti per aria, è arrivato a 204 punti base. Allora, la Grecia che torna a traballare, le ceneri islandesi, non quelle del crack islandese, primo crack di uno stato diciamo dovuto alla crisi finanziaria, ma le ceneri di quello che abbiamo chiamato il venerdì delle ceneri. E poi le inchieste su Goldman Sachs, secondo me oggi, per essere proprio scaramantici, ce n'è abbastanza per rispolverare dalle ceneri. Anche lui vola poco, un nostro animale purtroppo diventato un affezionato diciamo ascoltatore del programma. Mi sono dato il gufo da solo, così posso andare avanti con maggiore serenità. Andiamo avanti, quindi Grecia che scricchiola parecchio, qualche scricchiolio anche in Portogallo, e la Bundesbank, la banca centrale tedesca, ci mette del suo, dice che l'economia tedesca potrebbe aver chiuso i primi tre mesi dell'anno con un nuovo calo del PIL, e questo non sarebbe una bella cosa, perché tutti stiamo dicendo da mesi che con ottobre-novembre l'economia è ripartita, la Germania è e resta la locomotiva d'Europa, se quella annaspa annaspiamo tutti. In Italia sono già finiti gli incentivi per gli acquisti, in particolare quelli per i 12 milioni di euro riservati ai motorini. 4 giorni di tempo già finiti, troppo pochi secondo i concessionari, 12 milioni di euro per i motorini, e difficili anche da assegnare con la procedura telefonica attraverso il call center delle Poste Italiane. Una proposta, una tassa sui ricchi, arriva oggi dal Partito Democratico, un una tantum, cioè che si pagasse una volta sola per tutti quelli che hanno un reddito superiore ai 200.000 euro, per trovare le risorse necessarie per portare la cassa integrazione guadagni, che ormai si sta esaurendo, perché a 12 mesi, da 12 a 24 mesi. La proposta Cesare Damiano, una tantum sopra i 200.000 euro. Devo dire che contemporaneamente una proposta del genere, che può anche andare benissimo, bisognerebbe andare anche a scovare tutti quelli che hanno più di 200.000 euro, perché è impensabile che siano solo lo 0,4% del paese, 75.000 persone, e 0,1% del paese, scusatemi, dei contribuenti, 72.000 persone, di cui 54.000 pensionati dipendenti. Se no i ricchi qua sono sempre i soliti. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo col primo tema. Mentre la Consob americana, la SEC, l'autorità di vigilanza e controllo, sembra aprire altri fronti, Obama giovedì sarà a New York, Barack Obama, per stabilire nuove regole su Wall Street per evitare la crisi che stiamo vivendo. E devo dire, sarà anche una coincidenza, sicuramente la Consob americana non si muove su indicazione politica, ma non poteva essere alzata una palla migliore di questa accusa di frode a Goldman Sachs per Barack Obama nel momento in cui deve arrivare al braccio di ferro, lo scontro frontale con gli dei dell'Olimpo di Wall Street. ripercorriamo la vicenda, perché insomma Goldman Sachs, la regina delle banche d'affari che capitalizza 84 miliardi, che fu la prima a annunciare un bonus, so che le due cose non c'entrano, però l'atteggiamento è quello. Già nel 2009 16 miliardi di bonus, $500,000 a testa ai vari dipendenti, nonostante 10 miliardi di aiuto ricevuti dallo Stato, nonostante lo Stato salvando il colosso assicurativo AIG, ha salvato di fatto anche Goldman Sachs, che era molto esposta verso AIG. Dicevo, nonostante tutti questi aiuti, AIG è costata al governo americano 45 miliardi di dollari, per cui non robette, 66 miliardi di dollari, scusatemi. Nonostante questo, già il modello non era di quelli etici e virtuosi, si aveva distribuiti 16 miliardi di dollari di bonus nel 2009, tutto legale, ci mancherebbe, così è l'esempio che dai. E adesso si scopre che la banca avrebbe nascosto informazioni decisive ai clienti a cui vendeva prodotti derivati, prodotti ad alto rischio, derivati da crediti subprime, cioè dai crediti che la banca stessa aveva nei confronti di tutti i cittadini a cui aveva messo questi mutui subprime, in particolare l'emissione Abacus 2007 AC1 venduta a inizio 2007. Pensate che questo prodotto è stato creato da John Paulson, che non c'entra niente con Henry Paulson, l'ex segretario del tesoro, uno dei leader, uno dei guru, dei gestori di hedge fund, di fondi altamente rischiosi, e lo aveva fatto questo strumento, lo ha creato Paulson nel 2007 perché lui era convinto che il mercato immobiliare americano sarebbe crollato da lì a poco. E allora che cosa è successo? Cioè, mentre Goldman vendeva i suoi crediti o strumenti legati ai suoi crediti per aver prestato soldi, o comunque di chi aveva prestato soldi, a cittadini che avevano poche possibilità di ripagare il mutuo, non a caso si chiamavano subprime, sotto il livello di prime, cittadini a alto rischio, allo stesso tempo la stessa Goldman andava a sviluppare assieme a Paulson uno strumento che permettesse di guadagnare scommettendo sul crollo dei mercati immobiliari. Insomma, una cosa incredibile, no? Perché o vendi gli strumenti legati al mercato immobiliare convinto che comunque i mutui subprime terranno, oppure investi scommettendo che i mercati immobiliari crolleranno. Diciamo, ti fa un po' storcere il naso vedere che questi da un lato piazzavano gli strumenti col mercato immobiliare come se dovesse restare così, dall'altro andavano a scommettere col mercato immobiliare in crollo. E Goldman realizzò appunto questo strumento, nel fondo finivano i titoli immobiliari, le quote venivano vendute ai clienti e contemporaneamente Paulson e Goldman facevano incetta di credit default swaps, di CDS, per assicurarsi contro il rischio che gli strumenti che avevano venduto ai clienti non restassero in piedi. Ci guadagniamo da un lato e poi ci hanno guadagnato dall'altro, perché poi il mercato è effettivamente venuto giù. La mente dell'operazione è Fabrice Tour, ingegnere francese di 31 anni, vicepresidente di Goldman Sachs, è nella banca americana da quando aveva 20 anni, è uno che si era definito il Fabulous Fab. Allora, io ringrazio per averci raggiunto in collegamento dagli Stati Uniti l'economista Alberto Alesina, che è docente responsabile del Dipartimento Economico all'Università di Harvard in America e anche editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera. Con lei non entrerò nelle technicalities, nei tecnicismi di questi strumenti, anche se mi sembra, per quel poco che abbiamo capito, che insomma ci fosse un atteggiamento a dir poco strabico. O fai una cosa o fai l'altra, da lei vorrei un giudizio politico soprattutto su quanto fa comodo, tra virgolette, questa inchiesta a Barack Obama. Prima di tutto però, una piccola chicca. Questo Fabrice Tour, appunto, che si è autodefinito Fabulous Fab, parlava di se stesso e delle sue speculazioni in una mail del gennaio 2007. Attenzione alle date, perché poi tutto crolla nell'ottobre del 2008 e loro già lo sapevano. E sentite come si descrive. Sempre più debito nel sistema. L'intero edificio potrebbe crollare in qualsiasi momento. Unico sopravvissuto potenziale, il favoloso Fab. In piedi, al centro di tutte queste transazioni esotiche, complesse, a fortissima leva, che lui ha creato senza necessariamente comprendere tutte le implicazioni di queste mostruosità. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e l'avidità. Ascoltatemi bene. Non salverà solamente la Tel del Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Eh sì, non potevamo non attaccare al Fabulous Fab, come si autodefiniva, Fabulous Tour, il Gordon Gekko di Wall Street, che sembra un dilettante, professore Lesina. Obiettivamente, se rivediamo quel film, ci sembrano tutti dei dilettanti rispetto a questi signori, dicono alcuni ascoltatori, ma insomma non si chiama diversificazione. Sì, si chiama diversificazione se tu non... se tu la racconti tutta, se tu piazzi gli strumenti ai clienti dicendogli che sono strumenti in cui si va a guadagnare scommettendo sul, cioè impacchettando i rischi, e dall'altra sei sicuro che non solo non guadagneranno ma che il mercato verrà giù e crea uno strumento apposito per guadagnare con il crollo del mercato, a casa mia si chiama frode, a casa sua, professore? Ma il è un discorso effettivamente complicato, nel senso che la differenza sta tra frode e diversificazione, sta nel tipo di informazione che veniva dato agli investitori. Ora chiariamo un attimo, gli investitori che compravano o shortavano o lungavano su questi strumenti non erano le vecchietti pensionati o le vecchiette del libro di Keynes, erano delle società finanziarie, anche loro avrebbero dovuto essere estremamente sofisticate e sapere, capire che cosa stavano comprando, che se uno stava comprando dei CDO di quel tipo lì doveva immaginarsi che qualcuno le stava shortando da qualche altra parte nel sistema, quindi bisogna capire se Goldman Sachs ha volutamente nascosto informazioni oppure se ha fornito tutte le informazioni a seconda della legge. Il problema fondamentale secondo me in questo periodo è che nessuno capiva più niente di cosa stava succedendo, nessuno capiva più niente di cosa facevano le proprie la mano destra rispetto a quello che faceva la mano sinistra, quindi la confusione era enorme. Sì, anche se a giudicare da questa vicenda il fatto che appunto John Paulson con l'aiuto di Goldman Sachs realizzò già a fine 2006, inizio 2007 uno strumento perché si attendeva un crollo dei mercati, vuol dire che insomma da più parti chi operava diceva sta cosa qui, sta bolla in cui prestiamo soldi a tutti per comprarsi casa, detta brutalmente, non può reggere. Sono d'accordo con lei che la differenza, in questo caso anche giuridica, perché l'accusa di frode in America non è uno scherzetto, sarà proprio stabilire se loro avevano fornito tutte le informazioni e allora uno sapeva il rischio che si prendeva e a quel punto la banca è anche libera di crearsi uno strumento ribassista in caso di crollo, oppure se ne avevano celate alcune. Chi dice insomma, ma perché non chiamate qualcuno che ci capisca di cos'è la ricopertura e i derivati? L'accusa a me, professor Lesina, non si preoccupi, la ricopertura è una cosa, la frode è un'altra, la mettiamo così e poi la chiudiamo qua. Invece mi interessa la parte che riguarda Barack Obama, professore Lesina, perché come dicevo mezz'ora fa Wall Street Journal ha detto che insomma la SEC starebbe indagando anche sui casi di altre banche, citando Deutsche Bank, UBS e Merrill Lynch, ma Barack Obama giovedì sarà a New York per parlare della riforma di Wall Street, lo ha annunciato la stessa Casa Bianca. Già ha messo a punto una tassa da applicare ai big della finanza con chi ha bilanci superiori ai 50 miliardi di dollari che hanno ricevuto sostegni pubblici, lo 0,15% sulle passività di bilancio, e vuole recuperare in questo modo 100 miliardi in 10-12 anni. Tra l'altro i vari Citigroup, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Wells Fargo potrebbero pagare tra 1 e 2 miliardi a testa. Però quanto lo aiuterà l'inchiesta contro Goldman Sachs, per ora solo contro Goldman Sachs? Ma probabilmente lo aiuterà senz'altro. Stamattina Bernie Frank, che è il responsabile della commissione parlamentare che si occupa di queste cose, ha detto chiaramente su CNBC che questo evento di Goldman Sachs li aiuterà molto. Quindi sicuramente li aiuterà, nel senso che è un po' queste banche saranno adesso pensando che si troveranno lawyers per mesi e mesi o anni a fare le pulci a tutte le transazioni che hanno fatto, quindi è sicuramente un'arma che aiuterà se ci sarà questo scontro, e io spero che non sia uno scontro ma sia una cosa più cooperativa tra White House e Wall Street, quindi sicuramente li aiuterà. Tra questo e dire che sia una cosa organizzata in cui la SEC è stata usata per far questo, insomma, questo ci passa un po'. La SEC teoricamente è indipendente, quindi non si può pensare, non si può assumere che sia una manovra, però sicuramente il timing aiuterà molto il White House. Ecco, su questo la convince, da quello che si è capito, la riforma di Barack Obama? Cioè, lui vorrebbe mettere un ulteriore freno all'attività dei grandi gruppi bancari e anche alla crescita dimensionale. Cioè, attualmente una singola banca in America può avere conti correnti o di risparmio pari al massimo al 10% di tutti i depositi americani che vengono poi assicurati dal Federal Deposit Insurance. Con la riforma di Obama, se ho ben capito, nel 10% infileranno dentro anche i depositi non assicurati o altri attivi di bilancio, cioè limiterà la quota che uno può avere del totale. Altri hanno chiesto misure ancora più incisive, come la separazione netta tra banca d'affari e banca tradizionale, in modo che non ci possa più essere chi con una mano scommette in maniera molto speculativa su hedge fund o strumenti derivati e dall'altra però si prodiga anche a collocare risparmi, gestire risparmi, dare mutui. La convince? Professor Lesina? Non la sento più. Mi sente adesso? Molto male. Mi dispiace, ci deve essere, spero non sia anche più un problema. Adesso la sento meglio. Ecco, dicevo, la convince da un lato il fatto che nel 10% previsto dalla riforma del totale dei depositi americani verranno inclusi anche i depositi non assicurati, e dall'altro l'idea che di chi dice le banche devono dividersi tra banche che sono banche d'affari altamente speculative, che vogliono fare trading puro, e banche, cioè prestano soldi ai clienti, gestiscono i mutui, gestiscono i risparmi dei cittadini. Dove deve puntare secondo lei questa riforma? Sì, secondo me la direzione di dividere le due cose è la direzione giusta. Non è chiaro che sia facile e possibile per la banca che raccoglie depositi non avere completamente accesso a una serie di strumenti anche per diversificare e per assicurarsi. Quindi bisogna insomma vedere bene come la cosa può funzionare tecnicamente. Io come dicevo l'ascoltatore non sono un esperto di tecnica finanziaria. Mi dica però. Credo che ci siano due filosofie, tra l'altro, che questa vicenda di Goldman Sachs solleva. Una è quella di scrivere delle regolamentazioni molto precise e molto rigide, e credo che sia molto difficile data la complessità di questi mercati, e l'altra è dare delle regole relativamente più generali e poi lasciare alla litigation di andare a intervenire quando si violano i principi generali. Il sistema giuridico anglosassone è molto basato più su litigation. Sì, sui casi, sui casi che poi si presentano in tribunale, che fanno anche precedenti. In una battuta. Precedente, eccetera, eccetera. Mm-hmm. In una battuta, e poi la saluto, secondo lei sarà più difficile per Barack Obama fare passare la riforma di Wall Street o è stato più difficile fare passare la riforma sanitaria? Visto la difficoltà di far passare la riforma sanitaria, credo che più difficile di così non credo. Credo che qualche cosa sicuramente passerà. Io spero solo che non diventi un pasticcio e un compromesso fra filosofie diverse. L'importante è che si adotti una filosofia e che si facciano delle riforme che abbiano un criterio filosofico coerente. Grazie Alberto Alesina, in collegamento con noi dall'Università di Harvard, dove appunto è responsabile del Dipartimento Economico e di Provviste del Sole 24 Ore. Grazie, buona giornata. Allora, adesso il meteo, o ciò che ne resta, e poi la lunga pagina dedicata ai settori che stanno subendo un colpo anche pesante dalla nube. Il settore aeronautico è l'unico di cui si parla, ma non è solo, e qualcuno che invece ci sta anche guadagnando: Ferrovie dello Stato, settore dell'autonoleggio e non solo. Pesante anche il danno, dicono molti di voi, per i tassisti. Avete ragione, ci mancherebbe. Se le persone non arrivano in aeroporto, è probabile che il danno sia anche per tutta la categoria. Ci risentiamo dopo il meteo. 349-238-6666 per gli SMS. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa parte di Focus Economia, in cui commentiamo la borsa e poi passiamo agli aspetti economici del danno ceneri islandesi. Alcuni di voi ribattono i tassisti, insomma qualche tassista avrà anche guadagnato portando i passeggeri nelle tratte prima coperte dagli aerei. Abbiamo casi di circa 650 euro il costo di un Milano-Lione in taxi, 1200 euro tra Roma e Parigi. E poi casi specifici. Io dico una cosa: se c'è qualche tassista che si è trovato a portare dei clienti da Milano, da Roma, fino in varie capitali europee, ci chiamasse al 349-23, chiamasse il centralino della radio all'800-24-0024, vedremo anche di ascoltare la sua testimonianza, perché è sicuramente interessante per capire anche che tipo di esperienza ha vissuto nel portare i vari passeggeri. Detto ciò, la borsa negativa, effetto Goldman, l'America continua a essere invariata. Giustamente alcuni di voi faranno notare che di questa vicenda, sull'accusa di frode a Goldman Sachs, su questa vicenda viene penalizzata più l'Europa che l'America, e sappiamo che purtroppo spesso va così. Io dico, qui c'è anche un effetto Grecia, con di nuovo i rendimenti delle obbligazioni greche al massimo, lo spread al massimo, la differenza con quanto rende l'obbligazione tedesca, di nuovo al massimo i credit default swaps sul debiti greci, e in salita anche quelli sul Portogallo. Ceo Condina, buonasera, Radio Colli sulle 24 ore. Buonasera a tutti. Sono questi gli elementi che hanno penalizzato oggi complessivamente i listini? Sì, certamente, anche se diciamo a metà pomeriggio era arrivato un dato incoraggiante degli Stati Uniti con il superindice economico che sembrava superiore alle attese. Questo ha dato temporaneamente un po' di linfa a Wall Street, migliorando leggermente anche le borse europee, ma poi la chiusura è stata comunque sui minimi di giornata, soprattutto per Milano, che ha perso quasi un punto percentuale. Allora, al di là delle banche, anche oggi in sofferenza, ma non nulla a che vedere con venerdì. Ricordavo in apertura del programma che, insomma, andando tra chi ha perso meno, Banco Popolare meno 0,38, Unicredit meno 0,70, Ubibanca meno 0,70, e poi Intesa San Paolo meno 1,1, Fondiaria meno 1,1 anch'essa, Generali meno 1,2, Popolare di Milano meno 1,4%, Unipol meno 1,6%, abbiamo visto Mediolanum meno 2,80%, abbiamo visto soffrire soprattutto CIR meno 3,30, Exor meno 3%, e anche Fiat meno 1,5. E allora CIR ed Exor? Ma CIR, diciamo, non ci sono motivi specifici, almeno in prima vista. Il titolo aveva guadagnato molto, si pensa che da febbraio scorso era arrivato ad avanzare quasi del 20%, nell'ultimo periodo c'è qualche presa di beneficio che magari si accentua in giornate come oggi, in cui comunque la borsa va in rosso. Per quanto riguarda Fiat ed Exor invece c'è un motivo più chiaro, che è diciamo l'avvicinamento alla presentazione del piano industriale nuovo della Fiat di mercoledì. Su questo sappiamo che le voci si moltiplicano su un possibile spin-off dell'auto e su quello che potrebbe anche essere l'effetto sulla finanziaria Exor, che, come sappiamo, stando ai calcoli di analisi, sottovalutata al momento, invece se con lo scorporo dell'auto potrebbe, insomma, crescere, certo, in borsa. Qui c'è un nervosismo chiaro degli operatori, e considerato anche che sia Fiat che Exor negli ultimi tempi erano cresciuti molto proprio in attesa di questo piano. Allora, volete sapere i migliori e i peggiori? Montefibre meno 7,6, Antichi Pellettieri meno 5, tra i peggiori, migliori Cell Therapeutics meno 3, e più 3,68, e Piaggio più 2,6, come Poltrona Frau più 2,2%. C'è un titolo bancario che oggi bene è andato, e quindi si mette in evidenza a maggior ragione, che è il Monte dei Paschi, il miglior titolo tra quelli di maggiore capitalizzazione, più 1,5%. Di questo parliamo dopo le informazioni sul traffico. Invece, volete sapere se c'è qualche effetto in borsa sulla crisi dovuta alla nube del vulcano islandese? Sì, c'è, e si chiama Autogrill, perché chiaramente con gli aeroporti bloccati si presume un minor utilizzo degli aeroporti. Autogrill, che gestisce il 50% del suo fatturato in America facendo ristorazione sugli aeroporti americani, ha perso il 2,5%. Oddio, una delle volte in aeroporto se è bloccato magari mangio di più anche al ristorante, prevengo l'obiezione degli ascoltatori. Traffico e poi gli altri titoli, 349-238-6666 per gli sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per concludere la pagina di borsa. Allora, Monte dei Paschi, unico titolo positivo e anche di tanto, vista la giornata per i bancari. Sì, più 1,55%, qui bisogna fare un discorso un po' a parte, perché sì. Monte dei Paschi nei mesi scorsi era stato penalizzato in borsa, si era parlato addirittura anche di un aumento di capitale, comunque smentito dai vertici. Invece da settimana scorsa, in questo roadshow a New York, sembra che il titolo un pochino di vigore l'abbia ripreso. Poi oggi è arrivato anche questo report positivo di Deutsche Bank che consiglia di comprare il titolo, e da qui, insieme anche ad alcune voci sul fatto che potrebbe ripartire il piano di cessione di immobili che darebbe alla banca un bottino superiore ai 2 miliardi, il titolo insomma ha ripreso vigore guadagnando l'1,55%. Ancora vorrei concludere con i titoli e poi passare ai temi economici relativi alla crisi dovuta alla nube islandese con ST Microelectronics, secondo miglior titolo, più 0,93%. Allora, ST fa felici piccoli azionisti, sì, infatti il consiglio di sorveglianza ha proposto all'assemblea del 25 maggio, che poi di fatto insomma ci si presume che lo approvi, la distribuzione di un dividendo cash annuale di $0,28, che è un bel balzo rispetto all'anno scorso, se si pensa che aveva fatto solo $0,12, quindi più che raddoppiata, in borsa guadagna quasi un punto percentuale. Grazie a Radio Corriere Sole 24 Ore, oggi nella persona di Ceo Condina, e adesso iniziamo la lunga pagina dedicata ai vari settori economici coinvolti dalla nube islandese. Vedo che alcuni ascoltatori ci scrivono denunciando prezzi folli nell'autonoleggio, avremo anche le compagnie di autonoleggio, 1100 euro per andare dalla Germania all'Italia, e dico anche agli ascoltatori che o fanno i tassisti, ci raccontino la loro esperienza, oppure erano passeggeri magari di un taxi e ci raccontino come è andata, che difficoltà hanno avuto e se si ritrovano nelle cifre che abbiamo letto, cioè 650 euro in media per andare da Milano a Lione in taxi, 1200 euro per andare da Roma a Parigi, c'è chi ha pagato come l'attore inglese Johnny Cleese 3800 euro per fare Oslo-Bruxelles nel momento peggiore, quando era appena scoppiata la nube. Comunque, dal venerdì al lunedì delle ceneri. Allora, il computo dei costi non è facile. Un miliardo lo hanno già perso le compagnie aeree se la crisi dovesse finire adesso. Perdono dai 5 ai 10 miliardi di euro a settimana. Sono circa 250 milioni al giorno, quindi il calcolo è presto fatto. Poi ci sono le perdite legate agli aeroporti e alle società aeroportuali. Sono intorno ai 136 milioni per i 313 scali paralizzati fino adesso. Sono perdite molto inferiori, ma insomma anche i bilanci sono più bassi. In Italia fino ad ora 35 milioni di euro di mancati guadagni per il trasporto aereo tra indotto, compagniere e servizi aeroportuali, sono circa 5 milioni al giorno, mi sembra un po' pochino così, però visto che sono 250 milioni a livello europeo. Trenitalia ha incassato intanto mezzo milione di euro in più al giorno, 550 mila euro, grazie ai 10 treni supplementari messi a disposizione. Dei taxi abbiamo detto, c'è un settore che era passato ancora un po' inosservato e che invece sta lamentando i danni enormi, e mi riferisco anche al settore dell'agricoltura. Si calcola tra i 15 milioni al momento di danni stimati, fino dai 15 ai 10 milioni di danni. Il numero da chiamare per prenotarsi, per intervenire, è 800 24 00 24, o un tassista o un passeggero di un taxi che avesse percorso l'Europa o un pezzo di Europa in taxi. Hanno ragione i tassisti che stanno perdendo anche lavoro, l'abbiamo detto, i taxi sono fermi, in aeroporto non ci va nessuno, al massimo uno ci va e poi torna a casa. L'agricoltura, quindi, iniziamo con Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti. Buonasera, dottor Bazzana. Dunque, voi avete stimato in oltre 15 milioni di euro il danno per gli agricoltori, soprattutto per un'agricoltura come quella italiana che si basa sulle primizie, sul fresco. Sarebbe poi interessante vedere anche il settore agroalimentare, perché ci sono le mozzarelle, i formaggi freschi, i prodotti freschi che non partono. Insomma, da dove arriva il danno principale? Cioè per quali settori? Il nostro calcolo è un calcolo sull'agroalimentare, non solo sulla sull'agroalimentare, su tutto l'agroalimentare. Sì, perché ovviamente, ovviamente è chiaro che è un mix di prodotti. Alcuni possono essere esportati così come appunto vengono realizzati, raccolti nelle nostre aziende, altri vengono rielaborati. È chiaro che comunque il fatto che vengono bloccate le esportazioni ha una ricaduta indiretta anche sulle imprese agricole, quindi noi parliamo di agroalimentare nel suo complesso. Quindi qui possiamo vedere comunque un insieme di prodotti che possono andare dai latticini a quelle che sono le primizie ortofrutticole, ma anche prodotti magari sospettabili come potrebbero essere vini d'alta gamma oppure dolci, gelati, prodotti della pesca, insomma più o meno tutta una serie di prodotti che possono avere l'esigenza di un trasporto tempestivo e, sì, e magari di una consegna in tempi brevi. Sì, per fortuna il vino d'alta gamma non va male, mentre i prodotti del fenotico, anzi, più invecchia meglio sta. Magari c'è l'esigenza di avere una fornitura di bottiglie in tempi brevi, vabbè, certo, perché magari c'è una ricorrenza, c'è un'evenza, un avvenimento che magari non potrebbe essere coperto in tempi sufficientemente ragionevoli col trasporto per altri, sì, mezzi, e quindi magari si utilizzano. Poi, ripeto, per prodotti di altissima gamma può essere appunto anche questo un canale perseguito. Ecco, tra l'altro devo anche dire che noi esportiamo soprattutto questi prodotti, penso al lattiero caseario, a tutto l'alimentare fresco, ai prodotti dell'agricoltura freschi, e ancora in un settore come quello dell'agricoltura, di cui spesso ci siamo occupati, che ha sofferto moltissimo tra 2008 e 2009 con i prezzi dei prodotti venduti dal campo in calo del 20%. Chiederete i danni? Danni, diciamo, il risarcimento, non ai danni, ma insomma un aiuto? Cioè, adesso innanzitutto vediamo cosa succede, vediamo quanto si viene a procrastinare questo tipo di situazione e poi verranno fatte le valutazioni del caso. Io credo che ci sono anche altri effetti che devono essere però considerati. Mangeremo la frutta e la verdura di stagione magari, no? L'altra faccia della medaglia è che ovviamente ci saranno un po' di difficoltà anche per le importazioni, si presume. Poi è chiaro che quello dipende dalle rotte, per cui se queste rotte sono più o meno coinvolte, perché se sono paesi ad esempio dell'emisfero sud che magari arrivano con dei trasporti aerei nel centro del paese o nel meridione, è chiaro che magari c'è qualche problema di meno, perché dipende poi dalla situazione rispetto alla zona del vulcano e dell'eruzione. Però è chiaro che avremo comunque anche delle situazioni diciamo così di riduzione dell'importazione, e questo potrebbe essere positivo per una riscoperta, come si diceva, della stagionalità dei prodotti di stagione. Sì, ecco, mangiamo le ciliegie e non l'ananas, fermo restando che poi l'ananas arriva in cargo, quindi non ne frega niente dell'aereo, però insomma magari riscopriamo anche dei prodotti più stagionali. Detto ciò, il danno per i nostri agricoltori c'è, e c'è tutto, perché insomma il boom della mozzarella in Francia, di cui spesso abbiamo parlato, di altri prodotti italiani all'estero, in questo momento è tutto bloccato, e sui prodotti del fresco non vai a recuperare niente, quindi la battuta valeva per il vino ma non certo per il settore lattero caseario. Grazie, in bocca al lupo soprattutto a voi, come a tutti coloro i quali hanno in questo momento un danno economico non da poco dal blocco del trasporto aereo che si è generato in Europa. Sì, vedo moltissime SMS che dicono, beh, insomma, ci sono anche tutte quelle aziende che devono mandare i tecnici all'estero per manutenzione, per altri elementi, per installare impianti, ci stanno perdendo in maniera diversa. Vedo anche molti SMS dei tassisti, ma perché non chiamate, che ci danno le tratte, i costi delle tratte. Allora, 1.400 euro da Torino a Parigi, più 250 euro per il treno Parigi-Londra. Ancora c'è un tassista, dunque la tariffa è un tassista che scrive da Milano, è 1.700 euro da Milano a Parigi e 1.100 euro da Milano a Monaco, per cui 1.200 da Roma a Parigi è troppo poco. Allora, 800 24 00 24 per prenotarsi al numero verde di Radio 24, se avete da raccontarci quanto avete pagato una tratta o quanto fate pagare una tratta, che siete clienti o tassisti. Poi parleremo con le Ferrovie dello Stato, con gli autonoleggio e con tutti quelli che riusciamo a contattare. 349-238-6666 per i vostri SMS, invece il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per continuare questo approfondimento sui danni e costi economici della crisi. Allora, ci ha raggiunto in collegamento, lo ringraziamo, l'amministratore delegato di Trenitalia, l'ingegner Mauro Moretti. Buonasera, ingegnere. Buonasera. sera sono amministratore di FS. FS, ha ragione, che sennò Cui poi... Cui Italia è un'importantissima è una delle due importantissime società. Allora, voi, intanto gli aggiornamenti, è partito alle 16 da Milano, destinazione Parigi, un treno straordinario di Trenitalia per ricondurre a casa centinaia di turisti bloccati dal fermovoli. E poi... posso dire su questo? Sì, mi dica. Sembra che sia tutto bloccato, non è così... Ad esempio ieri noi abbiamo portato verso la Francia, con sì. i nostri treni, notte in particolare, oltre tre giorni, 1700 persone, quindi vuol dire che comunque c'è un canale di comunicazione ancora attivo che noi garantiamo attraverso i treni ordinari e naturalmente anche i treni straordinari, ieri sera abbiamo fatto un treno straordinario notte oltre a quelli giornalieri. Poi oggi abbiamo fatto questa operazione di ricongiunzione poi ai servizi francesi via Modane, e quindi manteniamo queste rotte aperte. Stiamo organizzando, questo lo voglio dare come notizia, sì. un treno straordinario anche per questa notte, naturalmente bisogna che abbiamo richieste sufficienti per farlo. Lo dico perché in questo momento, dove sembra non si possa viaggiare, in verità non abbiamo ancora richieste sufficienti per prevedere un treno straordinario notte verso Parigi. Sì, questo è anche un problema, cioè come mettere in contatto i passeggeri che vorrebbero andare a Parigi con... la vostra disponibilità. Certo. Oggi mi sono rivolto alle compagnie aeree che hanno il numero di passeggeri e sanno le destinazioni, che dovrebbero in qualche modo aiutare i loro clienti a trovare mezzi alternativi a quelli aerei, ad esempio il treno, cercando attraverso un'operazione di dialogo con noi, senza lasciare il cliente isolato, a trovare una soluzione per poter incanalare. Ecco, mi faccia capire questo aspetto, perché non se ne è ancora parlato, ma insomma... Le compagnie aeree, avendo una responsabilità, non che sia colpa loro al vulcano, ma insomma sono loro che li hanno portati in Italia e uno doveva rientrare da dove veniva oppure doveva uscire dall'Italia, si sono limitate a dire il volo è cancellato, arrangiatevi e quindi tutto scaricando sulle società che gestiscono gli aeroporti e poi magari anche su di voi, o vi hanno contattato tempestivamente per dire noi abbiamo 300 passeggeri che dobbiamo far portare a Monaco di Baviera, quanti treni potete organizzare sulla linea Verona-Monaco, Venezia-Brennero oppure sulla Torino-Modane, cioè qual è il rapporto di scambio di informazioni con le compagniere che sono le uniche che poi conoscono i numeri esatti? Dunque, non so la loro organizzazione interna, al momento siamo stati noi a rivolgere appelli a fare questa cosa, dobbiamo dire che c'è stata una, come dire, una risposta positiva di Alitalia, ne ho parlato oggi con Sabelli per alcune rotte, in particolare per Parigi, per vedere come organizzare eventualmente, nei casi in cui persiste il fenomeno, anche dei, come dire, dei viaggi integrati, in modo da poter offrire verso quella rotta uno sfogo. Questo è importante perché, come noto, ammesso che non cambi anche questo, Roma è l'unico scalo europeo di grandi dimensioni, che ha caratteristiche intercontinentali e internazionali, che ancora è accessibile dagli altri continenti. Eh sì. Sicché è visto come punto di arrivo, non so, quello che ha fatto la Merkel è come dire un caso da manuale che viene ad essere seguito in grande da tutti gli altri. La gente cerca comunque di arrivare in Europa e poi dall'Europa cerca di andare a destinazione. Questo punto è stato individuato in Roma, allora proprio per questo è bene che noi, assieme a tutte le compagnie, all'Italia si sta muovendo, ma anche le altre, riescono appunto a cercare di garantire un proseguimento di viaggio e che non si fermi semplicemente all'aeroporto, lasciando poi i clienti, che sono clienti loro, che diventano nostro dal momento in cui pigliano un biglietto. Quindi quando ad esempio si dice grandi problemi dentro la stazione, sì, noi accogliamo della gente che poi possono diventare nostri clienti, ma in verità facciamo un'operazione assieme alla Protezione Civile che ci sta dando una robustissima mano, di cui ringrazio, un'operazione di accoglienza di persone più che di viaggiatori, poi diventano potenzialmente viaggiatori se riusciamo a loro offrire un viaggio. Mettere assieme queste due cose è importante, d'altra parte devo dire che tutti i nostri servizi sono prenotabili su internet o addirittura sul telefonino, su iPhone, quindi usare questo per poter vedere le disponibilità è importante. Io stamattina sono stato in biglietteria, perché si fanno le file? Perché se uno va alla biglietteria automatica e chiede di partire a distanza di un'ora, come ho visto stamattina, per Milano, la risposta sicuramente è un no. Quindi che questo continua a chiedere a passo di mezz'ora il treno, basterebbe su un normale computer vedere che la prima disponibilità è dalle ore 16. A quel punto vede che tutto quanto viene ad essere fluidificato. Sì, tra l'altro il help desk negli aeroporti per poter garantire a questi clienti delle possibilità prima di muoversi di capire che c'è un posto, a che ora, e quindi magari invece di andare alla somministrazione possono andare anche a riposarsi e poi per tempo arrivare in stazione a pigliare il treno. Allora, sì, oltre all'help desk negli aeroporti, io consiglio ovviamente l'uso di internet e del telefono cellulare. Si prenota tranquillamente, basta una carta di credito, un bancomat via telefono, invece che arrivare in stazione, intasare le stazioni, intasare le fila di chi deve comprare un biglietto, molte persone anche che devono comprare normalmente per tratte che non hanno nessun problema. Ingegner Moretti, dunque, se ho ben capito, voi avete messo a disposizione 3 frecce rosse in più sulla tratta Milano-Roma, che è il vero problema, visto che poi, se, come lei ci ricordava, Roma viene usato come unico hub europeo per poi arrivare in Europa e poi da lì cercare di arrivare a Berlino, a Parigi, a Francoforte, dove uno deve arrivare. 3 frecce rosse in più sulla tratta Milano-Roma. A noi risultava circa un'ora fa che ci fossero ancora 2450 posti dalle 18 in poi sulla linea Roma-Milano e verso le 17 circa 1300 posti sulla linea Milano-Roma. Domanda: voi avete sospeso tutti i permessi e le ferie dei vostri dipendenti, ma quanti treni in più potreste mettere? Cioè, se si decidesse che Roma deve diventare lo smistamento per chi deve arrivare poi a Parigi o a Monaco di Baviera, quanti treni riesce a reggere la rete? Lei riesce a dircelo? No, la rete può utilizzare, considerando che sono anche tutti i treni treni regionali e locali che naturalmente devono funzionare, che non possono essere disturbati, perché altrimenti avremo la rivoluzione dei pendolari, sacrosanta in questo caso. Noi possiamo fare altri 2 treni ora per poter andare verso Milano. Devo dire che abbiamo potenziato molto sabato, perché sapete che il sabato è il giorno in cui abbiamo una riduzione di servizio rispetto agli altri giorni. Domenica solo la mattina ha questo fenomeno, il pomeriggio è già allineato agli altri giorni. Oggi, che è orario normale, non abbiamo avuto grandi problemi, nel senso che i nostri treni comunque sono mediamente utilizzati poco più del 50%, e quindi c'è un grande spazio ancora dei treni ordinari da dover fare. Nel caso in cui fosse necessario, organizziamo dei treni, non solamente Freccia Rossa, ma anche altri che possono fare più stazioni, per poter, soprattutto in chiusura di giornata, evitare che la gente rimanga in stazione. Un'ultima domanda: visto che voi avete presentato i conti lo scorso, cioè 3 giorni fa, l'utile è cresciuto del 175% nelle Ferrovie dello Stato a 44 milioni di euro e il margine operativo a quasi 1 miliardo, contro perdite nel 2008 di 42 milioni. Trenitalia perdeva 42 milioni e ha avuto un utile di 20 milioni, l'utile invece complessivo è aumentato, appunto, come ricordavo, a 44 milioni più 165%. Da questa crisi voi state ottenendo anche un vantaggio economico, si è calcolato circa 505 mila euro al giorno. In tutto sommato potrebbero migliorare anche i conti dell'FS in questo modo? Guardi, non credo che siano i giorni di crisi che possono migliorare i nostri conti. I conti sono migliorati per 2 questioni soprattutto. Prima, una grande razionalizzazione organizzativa che ha portato a tagliare, non tutti perché c'è sempre da tagliare, sprechi e sovraccosti, sui quali però abbiamo fatto un buon lavoro, perché in euro 2006, cioè quando avevamo 2 miliardi e 115 milioni di perdite anno, abbiamo tagliato costi per 1.300 milioni di euro, per 1 miliardo e 300 milioni di euro, quindi una cosa consistente. Il resto l'abbiamo fatto aumentando i ricavi, e l'abbiamo fatto soprattutto con i nuovi prodotti, in particolare naturalmente le varie frecce, rossa, argento, bianca e così via, che hanno potuto posizionare un concetto di business completamente diverso rispetto a quello che eravamo abituati. Abbiamo peraltro fatto un'operazione di ricontrattazione sia con lo Stato, il servizio universale lunga percorrenza in particolare per il Sud, sia con quasi tutte le regioni, è noto che il Piemonte è rimasto fuori da questo, una ricontrattazione che ci ha permesso di poter da un lato riorganizzare i servizi, poi l'industry che deve fare i servizi e naturalmente far quadrare i conti. Il risultato è questo. La cosa che per noi è importante è che siamo oggettivamente in controtendenza rispetto a quella che è la situazione europea. Non dobbiamo dimenticarci che siamo in un anno di crisi, e l'abbiamo anche nel 2010, una parziale crisi. Per dare un'idea, SNCF è passata da un utile di quasi 500 milioni nel 2008 a delle perdite che rasentano 1 miliardo nel 2009, quindi un gap di 1,5 miliardi. Un gap non così non dello stessa dimensione, anche se hanno risultati ancora attivi, l'ha fatto Deutsche Bahn. Quindi è importante per noi questo trend, che ci permette di poter affrontare gli investimenti, sia per l'alta velocità che per il trasporto locale, con delle condizioni economiche migliori. Risulta vanta ancora però, questo lo devo sottolineare, una posizione finanziaria netta di Trenitalia molto dura, che abbiamo ereditato, e siccome quest'anno siamo riusciti a portare Trenitalia in utile per la prima volta, è chiaro che iniziamo adesso a non distruggere ricchezza, mentre prima, come diceva lei, siamo partiti da quasi 2 miliardi. Allora, io avrei molte altre domande per lei sulle tratte, su la scelta fatta su Milano Roma. Io le do appuntamento a un'altra puntata, tra virgolette, più normale di Focus Economia, in cui parleremo dell'FS proprio come soggetto, come attività economica. Grazie intanto per averci raccontato lo sforzo che state facendo e anche la disponibilità che esiste, basta che arrivino le prenotazioni sulle tratte ferroviarie coinvolte. Grazie all'amministratore delegato dell'FS, l'ingegnere Mauro Moretti. Grazie a voi, buona giornata. Traffico e poi gli altri settori coinvolti, trasporto, l'autonoleggio da un lato e anche trasporto marittimo, se ce la facciamo. 349-238-6666 per gli SMS. Sono le 18:20, ultima parte di Focus Economia. Allora, mi sa che non ci stiamo con il trasporto via nave, ma comunque è un tema più strutturale, lo tratteremo domani per vedere chi ha scelto per esempio le tratte Livorno-Genova-Barcellona. Siamo in collegamento invece con chi rappresenta uno dei maggiori gruppi dell'autonoleggio in Italia e poi anche con chi invece ha vissuto l'esperienza sulla sua pelle. Allora, per quello che riguarda l'autonoleggio, anzi, prendo subito l'ascoltatore Giancarlo da Milano. Giancarlo, mi sente? Sì, la sento. Buonasera. Allora, intanto lei mi dica una cosa: ha fatto la tratta Milano-Londra in taxi, così cerchiamo di capire anche quali sono le tariffe e dove stanno viaggiando. Milano-Londra in taxi, sono partito ieri pomeriggio intorno a mezzogiorno. A mezzogiorno, quanto ci ha messo, così per curiosità? Sono partito a mezzogiorno e sono arrivato a Londra, dove ho lasciato i clienti, alle 7 del mattino. E la tariffa che ha chiesto? 1900 euro. 1900 euro. Posso chiedere se li ha fatturati o hanno chiesto una nota, un bigliettino classico, no? Perché farebbe ridere. Un bigliettino classico. Senta, ha incontrato molte persone, molti dei suoi colleghi, perché ci arrivano segnalazioni di taxi di qualunque paese europeo presenti a Milano e in Lombardia. Ha incontrato molti suoi colleghi lungo la tratta da Milano per Londra? No, nessuno. Nessuno? In autostrada nessuno. Situazione del traffico tranquillissima? Per il San Gottardo il traffico, per la dogana di Chiasso traffico all'andata. Adesso sono ancora in Francia, sto ritornando in questo momento, sono quasi in frontiera Svizzera-Francia. Ma non ha caricato nessuno da Londra per Milano invece? Sarebbe stato bello, però no. Ho capito, comunque visto che è ancora in viaggio magari no, qualcuno... Ero troppo stanco per... Ecco, se dovessero chiedere domani la tariffa quale sarebbe da Milano a Londra? Partiamo dall'idea che se devo stare a guardare la tariffa costava oltre i 2500 euro. Cioè questo ragazzo che me l'ha chiesto si è fatto tutto il polmone taxi chiedendolo a tutti, tutti gli dicevano di no, che era troppo lungo. Parlando con me ci siamo messi d'accordo, a lui andava bene, a me andava bene, ed era una famiglia di due ragazzi, genitore e i due genitori, quattro persone. A 1900 euro, sì, che insomma diviso per 4, ammesso che si possa fare questo calcolo, diventa più o meno 450 euro a testa. Comunque, secondo lei domani chiederebbe di più o di meno? Qualcosa di più forse, non lo so. Beh, vediamo cosa succederà. È anche un modo per i tassisti per arrotondare i mancati guadagni. Grazie, perché ci serviva una testimonianza di qualcuno che finalmente avesse portato un passeggero, se no qua leggiamo stime di qualunque tipo. Grazie e buon viaggio di rientro, soprattutto guidi con prudenza a Giancarlo, che appunto si trova, se ho ben capito, a 2/3 del viaggio. Saluto invece, per averci raggiunto in collegamento, il direttore generale di Maggiore, uno dei maggiori gruppi, squadra di gioco di parole nell'autonoleggio in Italia, Stefano Gargiulo. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, ci sono auto noleggiabili A, B, che costi hanno? Perché leggiamo anche qui tariffe di ogni genere, perché non, le macchine che dall'Italia escono all'estero poi hanno dei costi più alti. Insomma, che tariffe state praticando e che parco macchine vi è rimasto a disposizione? Allora, cominciamo tengo a dire che noi non vendiamo posti, come dire, posti auto, il che significa che noi spostiamo flotta sul territorio, e questo, come può immaginare, crea dei problemi di logistica notevoli, perché a differenza degli altri tipi di trasporti, taxi, treni, aerei, noi noleggiando vetture senza conducente vuol dire che abbiamo un problema, che è quello della logistica, cioè recuperare le vetture che eventualmente vanno fuori. Dal punto di vista dei costi per noi non è cambiato assolutamente nulla, anzi cerchiamo di soddisfare quella che era la domanda fisiologica che è tipica di questo periodo, per cui noi siamo stati presi in contropiede soltanto nel weekend tra sabato e domenica da una domanda che è andata un po' al di sopra delle capacity, perché è evidente che coloro che erano presenti nelle aerostazioni o nelle stazioni ferroviarie hanno tentato di muoversi con mezzi alternativi, e quindi dal punto di vista tariffario, a secondo del gruppo vettura noleggiato, i prezzi potevano oscillare dai 60 euro ai 100 euro, questo per dare un ordine di grandezza, quindi sostanzialmente non è cambiato nulla dal punto di vista tariffario. Quello che è cambiato è che, io ho letto da qualche parte, c'è stato l'assalto, ma l'assalto non c'è stato di fatto, nel senso che noi siamo in grado come settore, non soltanto come maggiore, di soddisfare una disponibilità di flotta, ma poi una volta esaurita questa flotta, che tra l'altro questo è un periodo particolare, non è un periodo di alta stagione, è un periodo in cui le aziende cercano di strutturare la propria capacity di flotta in funzione di una domanda che è tipicamente business, quindi una volta esaurita le vetture poi in qualche modo dopo non c'è più disponibilità. Ecco, mi dai un esempio però, perché siamo in chiusura, dottor Gaggiulo, se io dovessi andare, teniamo l'esempio di prima, da Milano a Londra o da Milano a Parigi con una vostra auto, quanto mi costa? Guardi, darle un prezzo di quanto costa oggi una vettura da Roma a Londra, le direi una sciocchezza, perché dipende se il cliente rientra o non rientra. No, non rientro, devo andare, ero qua a pressione del mobile, devo andare. E allora c'è un problema soltanto di costo di recupero della vettura, perché il noleggio in quanto noleggio giornaliero potrebbe costare 150-200 euro, ma se la vettura arriva a destinazione e va recuperata, indubbiamente il costo è legato al recupero del veicolo, perché per cui la vettura non è rinoleggiabile da Londra. No, ma dico per cui, diciamo, su quanto monterebbe questo costo? Ma dipende dal trasportatore, ma potrebbe scegliere tra i 300 e i 400 euro, i 500 euro, ma dipende fondamentalmente, certo, da come siamo costretti a recuperare il veicolo. Nessuna compagnia può rinoleggiare le vetture. No, ma questo è chiarissimo, e ringrazio anche lei. Abbiamo adesso lo speciale di Radio 24 e tutto un insieme di altri programmi. Grazie quindi anche al direttore generale di Maggiore, Stefano Gargiulo. Mi sembra delle cifre comunque un po' più basse rispetto al taxi, certo che poi l'auto te la devi guidare e fa la differenza. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto, domani torneremo sul tema e vi auguro per ora buona serata, ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.